prigioniera dei poteri finanziari, italiani fragili e isolati, secondo il Censis. La Merkel in pressing su Roma e rilancia l'unione fiscale, bene i mercati. Pensione e manovra, domenica convocati sindacati e presidenti di regione, Cota e Zaia, non ci saremo, c'è il Parlamento padano. Calcio, oggi sorteggi per gli europei, Serie A stasera Milan-Genoa. Di nuovo una buona giornata da Simone Spezia, dalla redazione di GR24. In apertura dunque parliamo del rapporto del Censis. Ci colleghiamo con la nostra Alessandra Schepisi che ha seguito la presentazione. Alessandra, buongiorno. Sì, buongiorno. Fragile, isolata, etero, diretta, ancora fatalista, ripiegata su se stessa. È questa l'Italia del 2011, l'Italia della crisi, nella fotografia scattata dal Censis, su un paese che si sente ostaggio della grande finanza, ma soprattutto bloccato, incapace di reagire alla crisi, crisi pagata soprattutto dai giovani in termini di perdita di posti di lavoro, 1 milione in soli 4 anni, dalle famiglie che hanno visto erodere i loro risparmi, vittime anche di un sistema di welfare stremato da anni di tagli. Ma in questo quadro a tinte cupe emergono per fortuna barlumi di speranza, come un recupero di serietà e di responsabilità collettiva che, secondo il Censis, è pronta a entrare in gioco, come spesso è accaduto nei passaggi chiave della storia nazionale. 57% degli italiani infatti si dice disponibile a sacrificare il proprio tornaconto per l'interesse generale. E poi il valore dell'economia reale, base del sistema delle medie e piccole aziende, l'eccellenza dei territori, la solidarietà familiare, ancora punti di forza del sistema Italia. E se agli italiani manca un po' di autostima, ma una mano ce la danno gli immigrati, che considerano questo uno dei paesi dove si vive meglio. Per il 65% di loro nel 2020 la situazione migliorerà e la popolazione sarà benestante. E da Roma è tutto, a voi. Grazie dunque ad Alessandra Schepisi. Tu, Alessandra, hai intervistato il presidente del Censis, Giuseppe De Rita, sentiamo. Un'Italia fragile, una società fragile, isolata, con un senso di rassegnazione, di fatalismo, un ritratto abbastanza impietoso quello descritto dal Censis in questo rapporto. Siamo isolati ed eterodiretti. Isolati perché negli ultimi 3-4 anni non siamo stati più nei circuiti fondamentali del mondo, perché a livello di Europa si estraniavamo sempre di più, perché sul Mediterraneo contavamo sempre di meno. Ci siamo isolati e l'isolamento è quello che ci porta poi all'etero direzione, perché se sei isolato gli altri decidono per te, devi appartenere a un circuito per contrattare e pensare di contare. Questo non può non rendere fragile un popolo, non può rendere un popolo in qualche modo vergognoso, e questo naturalmente crea quella forma di sottovalutazione, di cattiva reputazione di noi stessi che abbiamo coltivato negli ultimi anni. Lei ha indicato 5 punti fondamentali per uscire dalla crisi. Primo, attaccarsi alla nostra economia reale, mai troppa finanza e più economia reale. Secondo, attaccarsi alla logica della lunga durata, fare discorsi di tempi lunghi, non di cose ad horas, perché sennò restiamo tutti angosciati. Legarsi ai conflitti reali che ci sono nel paese, perché ci sono, non sono soltanto quelli degli indignatos o del nord e sud, ci sono all'interno dei conflitti, delle divaricazioni, delle articolazioni territoriali importanti. Quarto, sviluppare quelle molte attività di nuova relazionalità, che sono dalle forme di spiritualità alle realtà del Facebook, del sociale, informatico e telematico. Quinto, ritornare a rappresentare la rappresentanza. Queste 5 cose, secondo me, sono comunque necessarie qualsiasi cosa succeda. Veniamo proprio alle questioni europee. Dopo le parole di Sarkozy di ieri, oggi a parlare è stata Angela Merkel. Il futuro dell'euro è inseparabile dal futuro dell'Unione Europea. Parole che pesano, se a dirle, la cancelliera Angela Merkel davanti al suo Parlamento, il Bundestag. Il nostro obiettivo è una Germania più forte in un'Unione Europea più forte, ha detto. Rassicurazioni che da una parte fanno tirare un sospiro di sollievo, dall'altra sono un altro ammonimento all'Italia, perché è proprio a Roma che Angela Merkel si è rivolta. L'Italia ha davanti a sé un'enorme sfida. È responsabile per il proprio futuro e per il futuro dell'Europa, ha detto la cancelliera senza mezzi termini. Lei, lunedì, Quindi, quando il Premier Monti presenterà le nostre misure per uscire dalla crisi, sarà a Parigi da Sarkozy, l'altro protagonista dell'Unione che continua a premere guardando ai conti di casa nostra. E se anche la Merkel non fa passi indietro sulla questione degli eurobond, che ribadisce non sono un contributo alla soluzione della crisi, una decisa apertura arriva all'invito della BCE di Mario Draghi. L'Europa è sul punto di realizzare un'unione fiscale. È in agenda, dice. Parola di Angela Merkel. Anna Migliorati, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E queste parole spingono i mercati. Deborah Rosciani. Sì, si profila intanto, dopo una buona partenza per le borse europee, anche un avvio netto in rialzo per Wall Street in base ai forti progressi che da la mattinata appunto spingono i listini del vecchio continente. Peraltro oggi ricordiamo che verranno pubblicate anche le statistiche sulla disoccupazione americana. Ondata di recupero però sulle borse europee, come dicevamo, che si accompagna anche ad ulteriori attenuazioni delle tensioni sui titoli di Stato, e queste attenuazioni coinvolgono ovviamente anche le emissioni italiane. Il differenziale di rendimento fra i titoli italiani e quelli tedeschi, pensate un po', stamattina è sceso sotto i 430 punti base, e il rendimento del titolo decennale italiano è scivolato al 6,48%, addirittura sotto il 6,5%. Le borse europee quanto fanno? Parigi più 1,75, Francoforte più 1,66, Londra più 1,52 e Milano addirittura guadagna 2,5 punti. Simone. E grazie Deborah Rosciani per questi aggiornamenti. In tutto ciò l'esecutivo si prepara ad un giro di incontri nei prossimi giorni. Al centro dell'agenda, o quantomeno del dibattito, resta il tema delle pensioni. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno. Si prepara un fine settimana denso di incontri a Palazzo Chigi in vista del varo delle misure anticrisi nel Consiglio dei Ministri di lunedì. Domani Mario Monti illustrerà le misure alle forze parlamentari che lo appoggiano. Domenica mattina sarà la volta delle parti sociali e degli enti locali. Quanto ai contenuti, ciò che fa maggiormente discutere la parte relativa alle pensioni e al mondo del lavoro. Al momento ci si basa sulle indiscrezioni, avvalorate però da alcune indicazioni date ieri a Bruxelles dal ministro del welfare Fornero. Le ricordiamo brevemente: reddito minimo garantito per chi si trova senza occupazione, quanto al calcolo della pensione l'arrivo del contributivo pro rata per chi non lo applica ancora, e poi un'accelerazione dell'aumento dell'età pensionabile per le donne e anche nuovi strumenti per favorire l'occupazione dei giovani, tutelando chi oggi è precario. Ancora oggetto di studi e di indiscrezioni poi è il nodo della soglia minima di contributi necessari per ottenere la pensione di anzianità a prescindere dall'età raggiunta. Ora è fissata a 40 anni, ma si parla di un possibile innalzamento tra i 41 e i 43 anni di contributi. Altro punto già fortemente contestato dai sindacati è quello del blocco dell'adeguamento all'inflazione delle pensioni a partire dal 1 gennaio 2012. Si colpirebbero i soliti noti, dicono i rappresentanti dei lavoratori. Bonanni, CISL frena però sull'ipotesi di uno sciopero generale, ma avverte sulle pensioni vogliamo una vera trattativa e non una semplice consultazione. E da Roma è tutto. Grazie anche a Vincenzo Miglietta. C'è qualcuno che della convocazione di domenica a Palazzo Chigi non è contento. All'incontro fissato da Mario Monti non ci saranno il governatore del Piemonte Roberto Cota e quello del Veneto Luca Zaia. Ritengono infatti che da parte del Premier ci sia stata una provocazione, uno sgarbo istituzionale. Motivo: l'incontro è stato fissato per domenica, il giorno in cui, ha ricordato Roberto Cota, c'è la convocazione a Vicenza del Parlamento padano, la prima dopo la riapertura. Non si agisce così, ha commentato il governatore. Noi avevamo dato ampia e completa disponibilità, poi è stata fissata evidentemente non a caso la data di domenica. Anche Luca Zaia non ha dubbi, domenica sarà a Vicenza perché, ripete, c'è stata poca sensibilità. Orari alla mano, bastava posticipare l'incontro governativo. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. In Italia il numero totale dei mutui nel secondo trimestre del 2011 su base annua è crollato dell'8,1%, una brusca inversione di tendenza rispetto al primo trimestre quando si era registrata una crescita. Sempre secondo l'Istat, le compravendite immobiliari segnano un forte calo, perdendo nel secondo trimestre del 2011, quindi sempre lo stesso periodo, il 3,2% su base annua. È il momento della nostra rubrica sull'evasione fiscale. Il paese sommerso. Il paese sommerso. Storie di ordinaria evasione fiscale. diventavano società per avere crediti con il fisco e abbattere i costi dei loro prodotti sul mercato, facendo una concorrenza sleale alle altre società del settore edile. Un'evasione scoperta dalla Guardia di Finanza in Abruzzo seguendo le tracce di un contribuente fantasma e nullatenente che metteva all'incasso fatture in banca per ritirare parecchio denaro in contanti, come spiega il capitano Diego Morelli, comandante della compagnia di Avezzano. Questo soggetto era titolare di una società che era sconosciuta al fisco e aveva una sede legale fuori regione fittizia. Il meccanismo andava al di là di un solo prestanome. C'era una società madre intorno alla quale gravitavano tutta una serie di società cosiddette cartiera fantasma, sconosciute completamente al fisco. Provvedevano ad emettere fatture per operazioni inesistenti verso la società madre. Tra società madre e società figlie, ecco il risultato dopo oltre 2 anni di indagini. 11 persone denunciate per vari reati fiscali, evasione di imposte dirette per 16,5 milioni di euro, violazione dell'IVA per 4,3 milioni di euro, fatture false per oltre 7 milioni di euro, 5 evasori totali scoperti. Si partirà col sequestro preventivo e la confisca di tutti i beni per recuperare quel che si può dell'ennesima evasione. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Noi torniamo alla politica in chiusura di questa prima parte del giornale radio con il via libera ai referendum sulla legge elettorale. Elisabetta Fiorito. Sì Simone, l'addio al Porcellum è sempre più vicino, la Cassazione dà il via libera al referendum sulla legge elettorale, l'ufficio della Suprema Corte ha giudicato valide 534.000 schede circa sul primo quesito e 531.000 per il secondo, è comunque solo un primo passo perché a gennaio la Corte Costituzionale dovrà esprimersi sulla legittimità, anzi sulla costituzionalità dei quesiti. Per il comitato referendario guidato da Andrea Morrone e Arturo Parisi il Paese ha più che mai bisogno di un Parlamento pienamente rappresentativo, mentre il Porcellum ha affidato la nomina dei parlamentari a pochi capo partito, separandoli di fatto dai cittadini. Per il segretario PDL Angelino Alfano è un primo passo rilevante ma non ancora definitivo, siamo al girone eliminatorio, dice Alfano, si deve ancora disputare la partita. Per l'Italia dei Valori il Paese deve tornare al voto nel modo più democratico e per questo serve l'abrogazione dell'attuale legge elettorale fatta solo per impedire agli italiani una libera scelta. Per il momento da Roma è tutto, a voi studio. Nella prima parte del giornale radio abbiamo parlato del rapporto annuale del Censis sulla situazione sociale del paese che descrive un'Italia prigioniera dei poteri finanziari, gli italiani fragili ed isolati. Abbiamo parlato di Angela Merkel che va in pressing sull'Italia e rilancia l'unione fiscale e di una giornata di mercati che è positiva e abbiamo parlato di pensioni e manovra. Adesso andiamo all'estero. Iniziamo dalla terza e ultima tappa della visita in Birmania del segretario di Stato americano Hillary Clinton, che ieri ha avuto colloqui ufficiali con la leader dell'opposizione Aung San Suu Kyi. Sorridono. Aung San Suu Kyi appare lievemente in imbarazzo. Hillary Clinton invece è raggiante. Sono neanche a un metro di distanza l'una dall'altra e indossano vestiti simili. La foto racconta la storia di un'attesa lunghissima. Per la leader dissidente birmana sono stati 20 lunghi anni, tutti passati in prigionia tra carcere e arresti domiciliari. Aveva osato, questa donna minuta, ribellarsi alla violenza della giunta militare. Avrebbero potuto ucciderla, ma sarebbe successo il finimondo, perché Aung San Suu Kyi era riuscita a toccare il cuore di milioni di persone. Non c'erano solo i birmani ad amarla, ma anche gli U2 e migliaia di artisti. Tra queste persone c'è sempre stata Hillary Clinton, che al merito, al talento e alla forza delle donne ha sempre dato il massimo del rispetto. È la prima volta da 50 anni che un segretario di Stato americano arriva in Birmania. Della cena non ci sono indiscrezioni, ma pesa come un macigno la lettera firmata da Obama, ma suggerita dalla Clinton, che alla giunta militare birmana scrive: «Gli Stati Uniti sono pronti ad aprire una nuova era nei rapporti con la dirigenza birmana, ma saranno sempre al fianco di Aung San Suu Kyi». Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Parliamo di Iran adesso. Le tensioni con l'Occidente dopo l'assalto all'ambasciata britannica restano fortissime. Il Times parla oggi di una sorta di guerra segreta per fermare le ambizioni nucleari di Teheran, e a questo riconduce la serie di esplosioni in impianti iraniani nell'ultimo anno. Il Senato americano dà intanto il via libera a nuove sanzioni. Il Sole 24 Ore ha provato a calcolare gli effetti sull'Italia di un possibile embargo petrolifero. Ci racconta tutto il collega Roberto. Buongiorno Roberto. Io ho fatto un punto soprattutto sugli effetti di un potenziale embargo petrolifero europeo nei confronti dell'Italia e dell'Europa, e non sono buone notizie soprattutto per l'Italia. Noi siamo i paesi che importano la maggior quota percentuale sull'import complessivo di petrolio dall'Iran, 13,3% da gennaio a settembre 2011. Che cosa è accaduto? Praticamente per recuperare la perdita del petrolio libico ci siamo gettati su altri mercati. L'Azerbaigian è diventato il nostro primo importatore e l'Iran continua a fornirci petrolio. Il problema è stato il seguente: che se gli altri paesi europei hanno diminuito consistentemente gli approvvigionamenti dell'Iran in vista di potenziali sanzioni, l'Italia non ha fatto altrettanto, l'ha fatto ma molto poco, e ora si ritrova esposta. Esposta in che misura, Roberto? In misura a questo punto molto elevata. Ma il 13,3% è una quota consistente ma non eccessiva. Il problema è il seguente: innanzitutto il petrolio iraniano è un petrolio pesante, vale a dire si ricavano bitumi, e in Italia le nostre raffinerie lo acquistano proprio per quella qualità. Trovarne un altro simile è possibile, ma non è così facile. Si potrebbe trovare in Russia l'Ural, ma ce n'è veramente poco e si pagherebbe parecchio di più. In sintesi, qual è il danno che sofferebbe il sistema italiano? Beh, le raffinerie italiane, che soffrono già margini negativi o comunque molto ristretti, si ritroverebbero ad accusare un danno, anche perché paradossalmente uno degli effetti delle sanzioni sarebbe che l'Iran potrebbe vendere petrolio a prezzi scontati in Cina o in India, e questi paesi rivendere i loro prodotti raffinati sul nostro mercato europeo, prodotti ottenuti anche col greggio iraniano, perché queste raffinerie hanno normative ambientali e sociali molto più leggere, hanno già margini maggiori rispetto a quelle italiane. Grazie dunque a Roberto Buongiorni, che citava la Russia. Bene, è proprio in Russia che andiamo, perché domenica si vota. L'inviata del Sole 24 Ore, Antonella Scott. Buongiorno innanzitutto, Antonella, e quali sono le prospettive di questo voto? Buongiorno, è un voto che improvvisamente è diventato interessante quando si pensava che fosse un voto scontato. Tutto è cambiato nel momento, più o meno, se possiamo semplificare, però nel giorno in cui Putin venne fischiato, come ormai abbiamo visto tutti, abbiamo letto tutti. Quello è stato, essere fischiato in pubblico è stato come un segnale per dire che la sua immagine non viene più data per scontata, che lui non ha più la certezza assoluta di essere apprezzato, adorato da tutti i russi. E i sondaggi vedono in forte calo il suo partito Russia Unita, che potrebbe non riuscire nel voto di domenica ad avere la maggioranza assoluta. Attualmente nella Duma, che si sta sciogliendo, aveva il 63% dei consensi, e quindi questo spiega un nervosismo crescente del Cremlino, che non è abituato a dover combattere per conquistarsi le percentuali che desidera. Quindi con il nervosismo il discorso si sposta anche sempre di più sui possibili brogli, quelli che sarà forse possibile constatare i seggi, ma anche quelli che invece è molto più difficile individuare, perché sono le pressioni che vengono fatte su i vari dipendenti nelle amministrazioni regionali, nelle compagnie regionali. Ormai ci sono anche diverse denunce sui blog, su internet, di dirigenti regionali o di compagnie o di amministrazioni che in qualche modo fanno pressioni sui loro dipendenti perché votino per Russia Unita. Quindi ecco, più che sui programmi, il grande quello di cui si parla in questi giorni, in questa vigilia, è quanto Putin potrà recuperare nella sua popolarità e quanto invece sarà un voto piuttosto diciamo contraffatto dai brogli. Grazie dunque ad Antonella Scott, che torneremo a ritrovare nelle edizioni di GR24 nel fine settimana e non solo con le cronache da Mosca. Noi ritorniamo all'Italia col secondo giorno di targhe alterne a Roma. Oggi non possono circolare le pari, qualche polemica c'è stata, a replicare alle critiche anche di molti cittadini. Questa mattina ospita prima edizione l'assessore alla mobilità di Roma Antonello Aurigemma, intervistato da Anna Migliorati. Siamo riusciti a bloccare il flusso di auto con le targhe dispari, ripristinando, riportando nella normalità il livello delle polveri sottili. Non è assolutamente una soluzione, sono delle misure precauzionali che vengono prese a tutela e salvaguardia della salute dei cittadini nel momento in cui si supera per un tot numero di giorni l'attenzione sul livello delle polveri sottili. Nel frattempo bisognerebbe lavorare a misure più strutturali. Il piano della mobilità prevederà proprio a breve, a pochi mesi, l'apertura di un importante tratto di metropolitana che andrà a ridurre di oltre 2 milioni di chilometri di vetture del trasporto pubblico su gomma. I colleghi milanesi si sono fermati sulla questione di misure così drastiche in settimana perché c'è il problema che poi la gente deve andare coi mezzi pubblici. Roma reggerebbe misure anche più drastiche in questo momento? Noi abbiamo avuto prove ben più importanti come quelle del 1° maggio e la verificazione di Giovanni Paolo II. Passiamo e siamo in chiusura, parliamo di sport. Carlo Genta, buongiorno. Oggi giornata tra il sorteggio per gli europei e l'attesa per, naturalmente, per il weekend di campionato. Certo Simone, oggi giornata venerdì, intensissimo di sport. C'è ancora il campionato di venerdì ed è una partita, quella di stasera, 20:45 a Marassi. Molto importante per il Milan perché va a caccia della Juventus, perché cerca il primato, perché magari vuole fare un regalo a Berlusconi che potrebbe tornare più vicino alla società. A proposito, ieri Allegri ha detto speriamo di vederlo più spesso a Milanello perché comunque ci dà la carica. Un Milan che comunque avrà delle assenze perché Abbiati si aggiunge alla lista degli infortunati e fino all'anno nuovo non tornerà nella porta del Milan, dunque spazio di nuovo ad Amelia, mancheranno anche Van Bommel e Zambrotta. Un Milan che ripresenterà Pato e Ibrahimovic, ma è una partita importante anche per il Genoa perché, come sapete, avrete sentito le dichiarazioni di Malesani ieri infuriato. Malesani sul banco degli imputati si è difeso, ma è inutile nascondere che potrebbe essere la sua ultima partita sulla panchina del Genoa. Dunque appuntamento alle 20:45, ma sarà una 14ª giornata di campionato spalmata su 3 giorni. Domani in campo le altre 2 protagoniste della Champions League, ci sarà Inter-Udinese, Napoli-Lecce, quindi un grande sabato pure di calcio. Ma non è tutto qui perché, come accennavi, oggi nasce l'europeo, sorteggio a Kiev per l'europeo 2012 ed è un'Italia che rischia perché è un'Italia in seconda fascia, in buona compagnia con Germania e Inghilterra, insomma una seconda fascia di tutto rispetto perché in prima vanno le 2 padrone di casa, cioè Polonia e Ucraina insieme alla solita Spagna e all'Olanda. L'appuntamento è alle 18 per il sorteggio, Simone. Grazie Carlo e poi ti ritroveremo naturalmente alle 14 con Palla Spicchi. È tutto per questa edizione di GR24 condotta e curata da Simone Spezia con in regia Roberto Scaltritti. Prossimo giornale radio alle 14. GR24, il sole 24 ore. Direttore Fabio Tamburini.